L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, davvero buon pomeriggio a tutti. Torniamo a parlare di Expo in questa puntata per scoprire, per presentarvi un bel progetto di recupero del verde di Expo. Chi c'è stato ricorderà quante piante c'erano in quel sito e nei padiglioni. Padiglioni che vengono smontati in questi mesi dopo i fasti del 2015. Ed è proprio adesso che si pone il problema delle piante. Che fine faranno quelle piante? Che fine hanno già fatto alcune di queste piante? Ebbè, purtroppo qualcuna non è arrivata a Natale, qualcuna non supererà l'inverno. Molte però sono state salvate grazie a un gruppo di volontari riuniti nel progetto Recupero Verde Expo. Si chiama proprio così. Un progetto che vuole salvare il verde trapiantandolo in altre città, dove venga adeguatamente valorizzato non solo come verde, ma anche come memoria di Expo. Fino adesso sono 25 i padiglioni nazionali che hanno donato le loro piante e attraverso questo gruppo le hanno fatte arrivare in 14 diversi comuni italiani e sono 5.000 le piante salvate. Cosa fanno i volontari? Contattano i responsabili dei padiglioni nazionali, chiedono loro cosa intendono fare delle piante, cercano di indirizzarli appunto verso una donazione a comuni, enti o associazioni che siano disponibili ad accogliere queste piante. Poi sempre i volontari si occupano di tirarle fuori dalla terra, trasportarle al minor costo possibile fino al luogo di destinazione e cercando quindi anche degli sponsor per questa operazione se necessario. Coordinatrice del progetto è Olga Moskvina, architetto del paesaggio che vive a Pesaro, ma che ormai è errante sul territorio italiano dove cerca appunto le dimore adatte per le piante che ha imparato ad amare durante i mesi di Expo, perché lei proprio ha lavorato alla realizzazione di alcuni padiglioni e poi ha lavorato nei mesi di Expo per il mantenimento del verde di questi padiglioni. Adesso diamo la parola a Olga Moskvina. Era il mio campo. Cioè, praticamente era tutto il mio bosco, la mia famiglia, perché ho gestito anche le piante che non erano del mio padiglione, però che avevano difficoltà, che erano indebolite, e per questo conoscevo praticamente tutto l'impianto di padiglioni privati, in più praticamente tutto l'impianto di verde pubblico, perché tutti i giorni passavo sul loop e guardavo in che stato ci sono le piante, si trovano le piante. Lì c'erano veramente piante di tutti i tipi e hanno dovuto tutte vivere a Milano, quindi alcune con un loro clima e altri assolutamente no. Credo che un'impresa veramente titanica. Sì, in effetti anche i servizi di Expo sono stati bravissimi a mantenere questo verde, perché la percentuale di sopravvivenza è altissima. Dunque, quando l'Expo ha chiuso, il 31 di ottobre, che cosa sarebbe successo se voi non foste intervenuti? In molti casi credo che le piante alla fine sarebbero stati portati via da qualche parte, o nei giardini privati o nei vivai, ma da qualche parte, cioè la gente con difficoltà uccide le piante, non tutte le persone sono in grado di uccidere le piante. Alcuni sì, senza problemi, ma per esempio, come si chiama, i platani di Olanda, dovevano tornare in Olanda e abbiamo dovuto convincere il governo olandese che è meglio lasciarli qua come testimonianza, perché dal punto di vista di sostenibilità mandarli fino a Olanda con 10 camion non è sostenibile. Arrivavano dall'Olanda quelle piante, o comunque arrivavano dall'Oman, le piante dell'Oman e così via? No, piante dell'Oman sono arrivati dalla Spagna e sono rimasti in Italia, solo che sono andati nei posti dove possono vivere, non potevano vivere in Lombardia. E i platani olandesi sono rimasti in Lombardia, a parte di 4 platani che sono andati a Pesaro, perché Pesaro è la mia città, non potevo. Non fare qualcosa a casa. Sì. Qui invece tutti gli altri platani sono rimasti in Lombardia. 4 fanno parte di uno degli ingressi nel Parco di Bollate. Il Parco di Bollate è un progetto, uno dei più grandi progetti realizzati grazie al recupero, perché sono 6.000 metri interamente piantati con le piante di Expo e sono credo 300-400 piante, ma forse anche di più considerando gli arbusti bassi, erbacei perenni, le rose, ma molto di più. Ancora non abbiamo finito, per questo non posso dare i numeri definitivi, però. E là all'ingresso, da parte della scuola, ci saranno 4 platani di Olanda. E poi un platano segna ingresso in centro storico di Arese, anche questo è stato molto amato. 11 platani sono rimasti in comune di Milano, ancora non sappiamo dove, purtroppo. Come, quindi si sa che andranno a Milano, ma non si sa dove. Come avete messo in contatto, diciamo, il padiglione con i comuni che erano disponibili ad ospitare queste, a prendere queste piante? Avete dovuto cercare voi i comuni? Sì, all'inizio non era facile, perché nessuno si fidava di questa operazione, perché noi eravamo sconosciuti e nessuno ha capito il valore economico della faccenda. Dopo che Bollate per primo ha preso le prime piante, le ha piantate giorno dopo, abbiamo pubblicato il risultato, la gente ha detto: oh, però funziona. Allora abbiamo fatto un accordo con Cogeser, che ha 8 comuni e ha una municipalizzata che può portare le piante, cioè pagare il trasporto e impianto, e allora è partito. Dopodiché abbiamo dovuto cercare comuni noi un po' veloce. Alcuni comuni ci hanno trovato dopo le pubblicazioni, hanno telefonato, hanno chiesto: non è che avete qualche pianta per noi? Noi abbiamo detto sì, vieni. Però il problema è trasportarla, questa pianta, perché poi c'è la volontà magari del comune, ma un po' meno quella economica. Il problema reale è la logistica, perché il cantiere che ti dà le piante ti dà condizione che tu li porti via a volte in mezza giornata, a volte in 2 giorni, a volte in 1 settimana, e quindi tu devi in un giorno trovare il comune che prende le piante, andare nel comune, vedere se il posto è adatto per ricevere le piante di Expo, che non è una mezza discarica, insomma deve essere un luogo dedicato a Expo. Poi trovare il trasporto, trovare chi pianta nel comune, cioè aiutare, molto spesso abbiamo aiutato i comuni a trovare trasporto, trovare i muletti che tirano fuori gli alberi, volontari con le loro manine sante hanno estratto molte piante piccole dalla terra. È un lavoro pazzesco, economicamente non sostenibile per il comune, che noi abbiamo fatto. Abbiamo tirato da terra più di 5.000 piante, cioè ogni pianta, per dire, pesa da 1 chilo a 3 chili, quello che abbiamo fatto. Abbiamo impacchettato in questi sacchetti e abbiamo consegnato al comune. Quindi organizzare tutto questo in pochissimo tempo è stata la parte più difficile, e credo che è la parte che sarebbe stata impossibile per la struttura di Expo stesso, perché Expo, essendo un ente pubblico, non può decidere: io do a questo o no, non do a questo, do a questo, senza fare la gara, senza fare la procedura, eccetera. Quindi il passaggio, come una sorta di donazione, quindi sì, attraverso il vostro gruppo, consente questa possibilità? Sì, visto che noi lavoriamo senza soldi, in questo senso siamo molto puliti, e quindi non possiamo avere interesse economico di questa operazione, e quindi la decisione a chi dare le piante di solito è la decisione ottimale in tutti i sensi, che deve essere ecologicamente più comodo per questa pianta, il posto dove diamo, deve essere il comune che è in grado di dare l'assistenza a questo tipo di pianta. Noi dobbiamo essere sicuri, quando siamo sicuri che il comune può prendere, trasportare e fare tutto come si deve, allora noi affidiamo la pianta, altrimenti no. Sono più veloci i piccoli o anche i grandi sanno essere veloci? Guarda, i grandi non possono essere veloci essendo grandi, cioè un grande è un ministero. Quindi noi per Comune di Milano abbiamo adottato un piccolo sconto, perché comunque abbiamo trovato un rapporto molto bello con l'assessorato di lavori pubblici, che prima all'inizio ci ha dato fiducia. Assessore Rozza ha detto: oh, questa è un'idea buona, Olga, fallo. E allora l'abbiamo fatto. E questo era molto importante, che uno grande ti ha dato fiducia. Secondo, la stessa Rozza ha distribuito dopo le piante per le scuole. E questo è molto bello perché i parchi pubblici di Milano comunque sono abbastanza forniti bene, e quindi le piante là potrebbero perdersi un po', invece nelle scuole diventano un centro della scuola. Finora qual è il comune più lontano da Milano in cui è arrivata una pianta di Expo per ora? Per ora è Pesaro, però adesso stiamo preparando un carico fino a Reggio Calabria, perché abbiamo le piante che non possono vivere il nostro clima, tipo Phoenix dactylifera, tipo strelizze. Loro hanno bisogno di temperatura media, cioè la più bassa invernale, di 10 gradi. Ecco, quindi abbiamo trovato interesse, grazie a Silvia che ha trovato qualcuno in Reggio Calabria. Il comune ha detto: ci piace molto, noi vogliamo avere il segno di Expo da noi a cogliere. Quindi abbiamo trovato uno sponsor a Roma che ci paga il trasporto tra Milano e Roma, fino a Roma, e dobbiamo trovare adesso qualcuno che ci porta da Roma a Reggio Calabria. Se ce ne fosse uno all'ascolto, che si faccia avanti. Guarda, la cosa importantissima che io vorrei sottolineare è che tutto questo è stato possibile perché il commissario generale Sala ci ha permesso di fare questa operazione, anche se, come si può dire, ufficialmente questa cosa non si poteva fare. Quindi lui ha detto: Olga, io non vi posso aiutare in questo, perché non esiste la procedura. Cioè, noi abbiamo fatto manuale di demolizione, dove abbiamo consigliato ai paesi di recuperare, però non possiamo obbligarli, non possiamo dare assistenza nella ricerca, eccetera. Se te la senti, fallo. Noi non vi mettiamo i bastoni tra le ruote, insomma, siate in regola, comportatevi bene e fate questa cosa, perché è una cosa giusta. E adesso sentiamo Elena Galimberti, volontaria del progetto Recupero Verde Expo, che ci racconta come è arrivata a unire le forze con l'architetto Olga Mosvina. Io in Expo ho lavorato come tutti gli altri ragazzi e avevo creato il gruppo Inside Expo per i lavoratori. Quindi a un certo punto, subito alla fine di Expo, all'inizio di novembre, Olga Mosvina aveva messo un post dicendo che il verde dei padiglioni sarebbe stato buttato. Al che mi sono chiesta: impossibile, non posso permettere una cosa del genere, devo aiutarla. Ci siamo viste il giorno dopo e abbiamo dato inizio a questo progetto, che è stato molto difficile all'inizio perché appunto non sapevamo bene come operare. Noi siamo volontari, quindi nonostante Expo ci ha sempre supportato come idea, cioè non poteva fare fisicamente nulla per noi, quindi dovevamo fare tutto noi. Grazie al cielo avevamo vari sponsor e appunto poi c'è una persona che parlerà, e anche l'AMSA ci ha dato per esempio i sacchetti per le piante. Il bello per esempio di questo progetto, nel tempo, oltre ai volontari che hanno partecipato, anche le persone del cantiere, gli operai stessi o i costruttori o le aziende di dismantling ci aiutavano quando potevano, e posso citare per esempio il caso dell'Austria o il caso dell'Ungheria, che gratuitamente ci hanno portato giù delle piante per esempio dal terrazzo e ci hanno dato a disposizione gli uomini e i gru. Quindi questo bello gruppo di volontari, che nasce da quello appunto precedente, che ruolo ha? Che cosa fate? Cosa avete fatto nei mesi? Perché poi so che avete cambiato adesso, non fate più quello che facevate tre mesi fa, però insomma. Sì, noi all'inizio praticamente estraevamo le piante, gli alberi, gli arbusti e erbacee dal padiglione. Noi sapevamo i padiglioni dove potevamo intervenire perché avevano dato disponibilità a donare le piante ai comuni, quindi mettevamo in contatto i comuni con il padiglione che faceva poi la donazione, tiravamo su le piante, le insacchettavamo e poi entrava il comune con il camion e le portava fuori. Intanto Olga andava comunque a vedere sui luoghi, nei parchi, dove sarebbero state messe e dove posizionate le varie piante, faceva un mini progetto lì sul momento. Perché l'idea stessa del progetto è che rimanga una testimonianza di Expo nei vari comuni, e quindi che sia scritto su ogni albero che è un albero di Expo, che è l'Oasi. Quindi che viene magari dall'Austria, dal esatto, padiglione austriaco. Quindi sarebbe un'oasi di Expo e dei vari padiglioni nelle varie città, e quindi le persone stesse possono andare a visitare nel futuro un pezzo di Expo, ed è quello che piaceva anche a noi, il fatto di poter partecipare a mantenere ancora una parte viva di Expo. Noi abbiamo lavorato lì e abbiamo sentito l'energia che dava, non vogliamo perdere totalmente questa opportunità. Ed ecco qui il principale degli sponsor di questa operazione, Marco Montagna, presidente dell'impresa di costruzione Montagna. In Expo aveva lavorato alla costruzione di 3 padiglioni, poi è rimasto per salvare il verde. Diciamo che io sono venuto, sì, mi chiamano sponsor, ma io avrei fatto volentieri il volontario, solo che non avendo il tempo, come altri hanno il tempo, il mio aderire al progetto si è dimostrato essendo utile anche economicamente quando potevo, pagando i pasti ai volontari o pagando dei trasporti o organizzando le gru o quello che potevo fare, o anche con i rapporti di conoscenza in qualche comune dove ho spinto per poter ospitare le piante, perché poi, come diceva Olga prima, è tutta una questione di rapporti. E il progetto, Olga è buona quando dice che forse le piante sarebbero finite altrove. Io, essendo anche un demolitore, perché devo restituire il terreno gratis, dico che se non avessi avuto l'occasione di interfacciarmi con il progetto Expo, che è anche il mio progetto, mi ritengo parte, avrei avuto difficoltà, perché le palme siamo riusciti a collocarle con grande sacrificio in Italia dopo che sono venute da Spagna. 50 palme da 5 metri e non è stato facile, ci hanno dato quasi niente, ma mi sono dovuto organizzare per fare portare via. Ma le piccole piante, tutto quello che era, sarebbe finito dentro i cassonetti, dico la verità, sarebbe finito probabilmente distrutto. Il termine più bello di questo progetto è stato, lo ha descritto bene Olga prima, è stato molto un progetto anche validamente dal punto di vista industriale, cioè di vedere una cosa buona e cercare buona, che è il non spreco, e superare le difficoltà per realizzarlo. Sono state tante. Devo dire la verità che molto ha giocato qui l'estrema gratuità dell'idea, per cui tutti si sono sentiti in dovere di aiutare e non di contrastare. Questo è strano. C'era anche questo afflato di cui parlavano le volontarie. Devo dire, come imprenditore, che questo afflato ci dovrebbe essere anche quando ci sono in mezzo dei valori o dei soldi, perché ci può essere un afflato, cioè il soldo è sempre una cosa diabolica da un certo punto di vista, invece è quello con cui viviamo tutti, quindi non so se mi sono spiegato in questo concetto. Sono contento che la gratuità qui abbia giocato tantissimo a favore, ma la stessa eliminazione della burocrazia eccetera si potrebbe avere in tanti altri casi. Volevo dire questo concetto così. Niente, io ho anche scavato le piante per conto mio insieme a sé in Marocco e le ho piantate alla Manifattura Tabacchi, che era una concessione che avevo io. Poi l'altra grandiosa cosa che hanno pensato il gruppo dei volontari Recupero Verde Expo è stata quella di mantenere Expo presente, perché abbiamo visto tutti che Expo inizialmente è stata un po' quasi osteggiata, no? Dai media eccetera, poi è stata amata dalla folla e adesso è bene che ci sia una coda di ricordo. Adesso gli olandesi che sono venuti a Pesaro torneranno anche in memoria di che hanno donato le piante per Pesaro, visiteranno e quindi nasceranno chissà quanti legami, che era anche un po' lo scopo di Expo. Expo è non è solo una manifestazione che nasce e muore, ma è una manifestazione che vuole seminare semi importanti. Certo, anche collegare paesi del mondo, persone. Senta, una curiosità, diceva, le piante appunto, però lei ha anche costruito questi padiglioni. Di solito lei costruisce perché le cose restino. Vederli smontare, anche questo credo sia stato un passaggio difficile, forse anche nuovo. Guardi, io sono un imprenditore e ci sono arrivato da adulto, sono una vocazione, perché avrei amato tante altre cose. Sono anche presidente del Banco Alimentare. Se c'è una cosa che io non sopporto è lo spreco. Più che ricchezza, miseria, quelle sono cose che esistono, ma demolire no, ma sprecare è tremendo. E dopo lo sponsor Marco Montagna, andiamo a sentire alcune delle esperienze dei volontari che hanno lavorato nel sito con la pioggia, con il sole, con il freddo, con la nebbia. Ecco, quali sono le esperienze che sono rimaste di più, che resteranno di più nella memoria di queste ragazze? Io sono Noemi, un'ex lavoratrice Expo e volontaria del progetto per il recupero del verde padiglioni Expo. Sicuramente, come ha già detto Elena, l'energia, la cooperazione, l'atmosfera che c'era fra di noi volontari o anche gli operai cantieri all'interno di Expo. Poi per quanto riguarda diciamo episodi faticosi ma anche divertenti, beh, c'è sicuramente una lunga lista. Quello che ricordo con più divertimento e fatica è il padiglione della Germania, dove ci siamo ritrovate in tre a dover portare su e giù per tre piani di scale circa 600 piante in due pomeriggi. E, molto faticoso fisicamente, però alla fine l'obiettivo ci ha dato forza e comunque fra di noi ci siamo divertite. Ciao, io sono Emanuela e ho lavorato in Expo per 6 mesi e poi alla fine di Expo, anch'io come la mia collega Noemi, ho aderito al progetto di recupero del verde. Ho visto questo post pubblicato su Facebook da Olga, in cui appunto lei cercava volontari, per cui mi sono candidata. Chiedo anche a te un episodio che magari ti ha particolarmente colpito o una difficoltà che non ti aspettavi di riuscire a superare, magari che siete riusciti a trovare il modo di un escamotage. Allora, il mio momento di crisi l'ho vissuto una mattina in cui sono appunto arrivata in Expo per raccogliere le piante come le altre mattine e ho trovato il padiglione del Qatar chiuso, quindi con le nostre vanghe all'interno del padiglione, che però appunto quel giorno non c'erano gli operai, per cui era tutto il nostro materiale era rimasto dentro. Quel giorno ero anche da sola, per cui in realtà mi sono poi avventurata cercando tra le mille porte del padiglione una via per entrare all'interno del labirinto. Sono riuscita a raggiungere il magazzino dove si trovavano le nostre vanghe. Vabbè, quindi ci va anche una bella forza, diciamo, non solo desiderio di mettersi in gioco, insomma. Sì, esatto, ci voleva una bella forza, soprattutto poi quel giorno ho lavorato a raccogliere le sterlizie che hanno delle radici che vanno bene in profondità, quindi è stata anche una prova fisica non indifferente, insomma. Allora, io sono Silvia, ex dipendente Expo e volontaria del progetto Verde per il recupero di Milano? Di Milano, sì. Quindi terrai d'occhio un po' come si comportano il comune di Milano con le piante? Beh sì, non è escluso che possa monitorare nei mesi futuri l'andamento delle piante. Non chiaramente, so poi si vedrà. Qualche così momento, come le tue colleghe ci hanno già raccontato, che ricorderai con particolare così intensità? Beh, una situazione particolare è stato quando mi sono trovata a impacchettare le radici degli alberi del padiglione francese, perché praticamente questi alberi sono stati estratti dal terreno, ma bisognava trovare un modo per tutelare, per proteggere il pane di terra, quindi le radici, in modo da appunto da proteggere sia dal freddo che dall'aridità che avrebbe comportato lasciarle per più giorni all'aria. Non essendoci di vasi di dimensioni tali da poter essere utili per lo scopo, abbiamo dovuto impacchettarli con degli stracci di stoffa, quindi con dei teli. E quindi mi sono dedicata per più giorni a fare appunto a fare questi pacchi regalo, diciamo, quindi a impacchettare subito prima di Natale diverse piante con questi teli che non erano mai lunghi abbastanza, quindi ho dovuto fare anche delle giunture. Per tenere d'occhio come procede il progetto Recupero Verde di Expo, cercatelo su Facebook, perché è stato da Facebook che è partito tutto questo movimento. Dovete cercare proprio Progetto Recupero Verde di Expo. Grazie a tutti per l'attenzione, ancora una volta da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.